Adesso credo nei miracoli. In questa notte tequila boom boom. Sai cosa sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi.